Wow, e questa era la nuovissima hit di Pupo, Gelato al nocciolato, e sono sicura che ci farà compagnia per tutta l'estate. E adesso colleghiamoci con Roma Radio. Su via di Tor de' Cenci il traffico è bloccato causa incidente, un'auto guidata da una donna si è scontrata con un motorino. Inutile l'arrivo dell'ambulanza, il ragazzo di 30 anni è morto sul colpo. Spa! Fast and Furious a 180 su via di Tor de' Cenci. Andava così un siluro che neppure l'ho vista quando mi ha investito. Magari andava sparata per portare i figli a scuola. Sì, sì, proprio così. È il più grande che avrà 7-8 anni, è seduto davanti e fruga nella cartella dell'uomo ragno e tira fuori quaderni, astuccio, la merenda. Michele, lo cerchiamo dopo il diario. E lui no, cocciuto, maschio sin da bambino che deve averla sempre vinta, che la donna è buona per fare una cosa sola, tira fuori tutti i libri, italiano, scienze, matematica. Michele, guarda che stai facendo, ti ho detto che lo cerchiamo dopo, quando ci fermiamo, sbatabò. E mentre la mammina scende per vedere come sto, come sta il morto, Michele trova il diario di Spider-Man. Bingo! E se un ragazzo di 30 anni schianta sull'asfalto è perché ognuno ha il suo momento, sì. Tipo biglietto della lotteria, che mica te lo meriti, sai, che ho il biglietto o un altro. E 6 gennaio la Carrà si mette lì, un numeretto alla volta. Ma che musica, che musica! E poi è il tuo biglietto, è il tuo momento, e poi sei morto! E anche se poi ci si piglia sassate per darsi la colpa, nessuno ce l'ha. Beh, ci fu un giorno fradicio che la Carrà voleva far uscire il mio biglietto. Sì, perché la mattina vado lungo su una macchia d'olio e il mio motorello sbadaboom e io paf, mi squamo la coscia. Oh, stai bene? Ma vuoi che chiamiamo un'ambulanza? Giù le zampe, sto bene, tranquillo, ce la faccio benissimo da solo. E quando nel mio stanzino mi scivolo i jeans, sulle gambe ho un 6'3, 6'1 di lividi grossi come palline da tennis. E mi viene in mente la mia racchetta, la Prince, con cui giocavo sul cemento di Tor Vergata, che anche se era fragico e lo chiamavano Tor Vergogna, io su quel campo facevo correre la pallina un delirio, sì, pim pam, pim pam, il tennis era meglio, il tennis ero io la racchetta, quella puttana della pallina da schiaffare al razzo, e nessun altro cazzo di pugile tipo Sonny Liston, il campione Sonny Liston, che ti squaglia il muso con un pugno destro, sinistro, gancio. Cazzo, Sonny, ma vuoi che ci fermiamo? Ah, io non mi arrendo per 2 gocce di sangue, tanto si ferma subito, non ti preoccupare. E Sonny, destro, sinistro, gancio, ma vuoi che mi fermi? Non ti devi fermare neanche se mi ammazzi, hai capito, Sonny? Vai, vai, ho detto. Solo così imparo ad alzare questa cazzo di guardia, a non farmi maciullare il muso dalla vita che non si ferma mai, cazzo, ti prende sempre a pugni. E poi sono di nuovo solo, negli spogliatoi col naso che bestemmia sangue. Non c'è nessuno specchio, cazzo. Nessuno specchio per sputare sul mio muso fradicio che le prende tutte, cazzo. Ma dai, Andre, ma non fare così, è normale. Lui la box la fa da molto tempo prima di te, ma scialla. Guardo Maria nello specchietto del mio motorello, cioè non gliene frega niente. Dottorato in diritto internazionale, master in international law. Disponibilità a lavorare su turni? Sì, sì. Disponibilità a lavorare full time? Sì. Disponibilità a lavorare sottopagata? Sì, sì. Non gliene frega niente. Sta là col suo caschetto della Lazio a fare 4 convenevoli mentre andiamo all'agenzia interinale e l'unico pensiero che le scivola nel microcefalo è il ritardo, arriveremo in ritardo anche stavolta. Quando imparerai a dirlo senza urlare, magari arriveremo in tempo. Ma io mi chiedo davvero, sì, io me lo chiedo davvero, cazzo. Ma arriveremo mai? No, perché Maria, non sai cosa mi è successo stamattina. Io lo so che è una cosa assurda, ma sono caduto di nuovo col mio motorino, cazzo, sì. Io non lo so, c'era una macchia d'olio enorme. Ma veramente, ma sei caduto di nuovo? Ma non ci posso credere. Ma è una sfiga assurda, cazzo. Fa il criceto senza neppure ascoltare quello che sto dicendo. Ma tanto nessuno mi ascolta, nessuno mi sta a sentire, nessuno mi prende sul serio. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. No, Cristo. Di nuovo la Carrà. Di nuovo Dio che vuol far uscire il mio biglietto. No, cazzo, non è ancora il mio momento. Io sono qui, sul mio motorino, sono ancora in sella e sto per arrivare. Cazzo, la strada è bloccata. C'è una micro in doppia fila. Cerco di superarla, l'affianco. L'ho quasi passata quando lo sportello della mica si apre. Spa! Io e Maria schizziamo lunghi sull'asfalto. Ma che musica, che musica! E mentre la Carrà sta per dire l'ultimo numero, apro gli occhi. Il criceto farfuglia qualcosa attorno a me. e casalinghe fanno la radiocronaca. È arrivata tanto così dalla testa, ero dietro, ci è mancato un soffio, maronna! Arriva la sirena dell'ambulanza che... Io non ho mai capito perché devono chiamarla sirena. Che poi io penso ad Ariel, sì, io penso ad Ariel che per pettinarsi prende la forchetta, la riccia spiccia lo chiama, arriccia spiccia, e ci si arruffa i capelli e io non capisco. No, non capisco perché si debba dare a una cosa brutta il nome di una cosa bella. E non capisco perché quando sento una sirena devo pensare che qualcuno sia schiantato sull'asfalto. Aia. L'imbianchino della Croce Rossa mi punta una micro lucetta sugli occhi che neppure dal cinese la trovi così piccola. Poi mi tocca la testa, mi tocca la pancia e finalmente mi rialzo. Oh maronna, il ragazzo si è rialzato, meno male, grazie a Santa Maria del Carmelo, grazie. Le comare si disperdono, Aria si allontana, il criceto urla qualcosa, io ritorno dal mio motorino. Cazzo, l'hanno schiaffato proprio accanto alla micra, ma che larve, è fradicio, ha il muso sbranato dall'asfalto, il parabrezza è un Picasso di graffi e le manopole sono mozziche di catrame. Avevi paura che ti lasciavo? Ma ti sembro il tipo? Gli do un colpetto sul manubrio, lui scatara un po' di gas e riparte. Sì, e siamo lui e io, e tutto lo schifo scorre distante. Penso che se Dio mi concede un altro ballo, io lo realizzo il mio sogno, che ancora lo devo creare, sì, che rimuore ogni giorno, che forse non esiste, d'accordo, ma io lo realizzo se Dio la smette di passare il mio cazzo di biglietto alla Carrà e mi fa arrivare a casa con le mie due ruote. Sì, sono ancora in sella io il mio motorino contro tutti, mancano pochi metri, adesso giro a destra, poi passo sotto passaggio, imbocco l'ultima via, la discesa è quasi finita, quando all'improvviso un vecchio Mercedes mi azzanna. Cristo, mi scaraventa giù dalla sella e mi scoppia al lato per terra. La mia guancia destra respira l'asfalto, sento il raschio dei pneumatici sul collo. Alzo la testa per provare a vedere qualcosa e c'è un bisonte che mi corre contro, corre verso di me, vedo una luce, luce all'infinito. Ma che musica, che musica, che musica, maestro! Il biglietto vincente è il 2664! Non è il mio. Non è il mio, sì, cazzo, non è il mio! E sono ancora qui! C'è l'asfalto, il casco, la pioggia e l'autista del bisonte in corsa che si ferma, mi aiuta, mi raccoglie, sì, sono ancora qui! E nel mio stanzino scivolo i jeans, la maglietta e le gambe sono un cruciverba di lividi e la schiena è un tapirulan di graffi. Allora mi sbiallo sul letto e domani non mi scrollo. Giuro, giuro che non mi scrollo dal letto, resto qui in eterno, ma cazzo... Cazzo, io ho un sogno e Dio mi ha dato un altro ballo. E allora domani corro dal mio motorello per trovarlo. Lo trascino fino al meccanico, sì, lo faccio aggiustare e torno in sella. Brum, brum, noi andiamo ovunque, vero? Noi vediamo ogni cosa, anche se è un mondo senza volti, anche se la realtà è un panorama che schizza. Io e te non ci fermiamo, anche se lo stomaco strippa di continuo perché ho i nervi a mille. Perché lo sapete perché? Perché mi hanno stracciato all'ennesimo lavoro come facchino, lavapiatti, cambusa. Il termine esatto sarebbe cambusiere, si è detto, non me ne frega un cazzo del cambusiere. Io non voglio fare il cambusa, io voglio fare qualcosa per cui valga la pena di aprire gli occhi la mattina, qualcosa che mi faccia sentire fiero di me. Un lavoro vero, ecco quello che sogno ogni notte, un lavoro vero. Sogno di non passare la vita a aggiornare curriculum che non legge nessuno, sogno... di non mandare lettere di presentazione a chi tanto non gliene frega niente. Sogno di non incontrare sempre qualcuno che mi chiede oggi che hai fatto? Perché oggi non ho fatto niente, ok? E non farò niente oggi, domani e il giorno che verrà. E sapete perché? Perché passo i migliori anni della mia vita a scartavertrare l'asfalto saltando da un colloquio all'altro per scoprire che non cercavano un ufficio marketing, ma un porta a porta, non una risorsa da inserire, ma uno schiavo non pagato, non un giovane pieno di entusiasmo e di voglia di fare, ma un disperato che non ha niente da chiedere e deve solo tacere. E anche se il cervello a volte dice basta, io non mi fermo, corro sul mio motorello e continuo a cercare, a lottare per trovare il mio sogno. E anche se non ho una micra o una cazzo di Mercedes, io me li mangio tutti sull'asfalto, perché lì ciò che conta non è la carrozzeria, no, ma la manovra. Sì, io sficolo, sì, supero i bisonti piallati tra un bus e l'altro. Oh, vi mando una cartolina quando arrivo, eh. A ogni semaforo che lampeggia io do un competto di clacson, perché la cara è sempre dietro l'angolo, eh. Io non voglio che stracca adesso il mio biglietto, adesso che sono ancora in sella, adesso che sono quasi arrivato, adesso che ce l'ho quasi fatta, sì, sono via di Tor de' Cenci, sempre dritto per 800 metri, all'incrocio svoltare a destra, all'incrocio rallentare, fermarsi, spow, Fast and Furious a 180, no cazzo, no, andava così un siluro che neppure l'ho vista quando mi ha messo sotto. Ah, sì, sì, forse correva perché stava portando i figli a scuola. Michele, lo cerchiamo dopo il diario di Spider-Man. Michele, lo cerchiamo dopo. Spow! E la bambina mi prende in pieno, cazzo. Mi ha preso in pieno. Il motorello schizza lungo, io volo. E poi mi squaglio sull'asfalto. Ma che musica. Che musica, maestro! È la Carrà che canta. È stato il mio biglietto. Cazzo, è il mio biglietto. È arrivato il mio momento. E mentre Ariel arriva col suo arriccio a spiccia in mano, io vedo chiaramente una cosa. La fine.